24 mattino. Vi sto ascoltando e non riesco a capire perché le persone che vengono messe in quarantena pensano che sia una punizione, iniquo, discriminatorio. La questione del lasciare a casa gli ultra sessantenni è semplicemente per una questione di loro sicurezza, non una punizione. Vi spiegate come mai i sessantenni devono rimanere a casa in questa situazione, però non possono andare in pensione finché non ne hanno 67-68? Considerando poi anche l'età media dei medici italiani negli ospedali, cosa li facciamo? Li facciamo stare a metà a casa? Ma che sciocchezza è questa? Sono ancora Arnaldo da Bergamo. No, io non mi rassegno. Noi siamo pensionati e andavamo sempre al bar a giocare a scopa su in altino. Tre tavoli, cioè praticamente tre o quattro tavoli sono per quattro, si fa subito il conto e nessuno è stato contagiato, anche se siamo tutti pensionati. Io non mi rassegno un bel tubo. Non si rassegna, non si rassegna. Invece ci sono altri casi, amico mio da Bergamo, nei quali esattamente da circoli di questo tipo è partito il contagio e ci sono state le vittime. Come vedete, dibattito aperto sugli over 60. Poi quando scatta la cosa? Dai 59... Cioè, quindi fino a 59, come diceva Fiorello, no? Fino al 16 maggio io ho 59 anni, che faccio? Mi posso muovere liberamente come un pazzo per due settimane e poi dai 60 in avanti fermo, chiuso in casa. Probabilmente semplicemente basterà avere un po' di cautela. Mi sembra difficile che si possa arrivare a questa, no? A questa cesura. Da 60 anni in avanti devi stare in isolamento. Vabbè, va bene, si dibatte di questo, così come ovviamente si discute dall'altra parte di giovani, di scuola e di bambini. Ho da dire che tanto si è discusso, e questo lo ricordiamo ancora una volta, lo ripetiamo ancora una volta, tanto si è discusso degli anziani e giustamente, poi ci torneremo più avanti in rassegna stampa con Paolo Mieli, perché ci sono molti elementi e molte storie che arrivano non solo dall'Italia ma anche dal mondo. E si è parlato molto molto poco dei bambini, della loro salute, del loro benessere, non solamente della scuola e dell'esame di maturità, che insomma francamente sì, importante, per carità, però la salute e il benessere dei bambini questi mesi, queste settimane, come le hanno vissute, che cosa stanno patendo anche dal punto di vista psicologico, cosa vuol dire per i più piccoli non andare a scuola. I due fronti, ancora una volta, i due fronti, da un'altra parte la popolazione più fragile e più esposta al virus, dall'altra quella più esposta ad altri tipi di problemi. Sono due grandi temi che nuovamente ci ha posto questa vicenda di Covid-19. Voglio rispondere all'ascoltatore che con molta cortesia accusa e dice sul tema del Consiglio europeo non potete, per così dire, celebrare come un successo quello che è successo ieri, quello che è avvenuto ieri. No, non è questo il punto. È il vedere un bicchiere mezzo pieno, nel senso che quando uno va ad una trattativa, e questo dobbiamo dirci, non è che quando vai ad una trattativa puoi ottenere tutto quello che vuoi sempre, perché nelle trattative ci sono più parti, alcune con visioni diverse, quindi si arriva ad un compromesso. Questo compromesso è un compromesso apparentemente decente, che tiene dentro ovviamente il MES senza condizionalità, e non è detto che uno lo debba attivare, tiene dentro questo recovery fondo, attenzione, perché molti lo scrivono, qualche ascoltatore me lo dice, scrive fund, no, non è fund, è fund, scritto F-U-N-D, ossia fondo, che tiene dentro un ampliamento del budget comunitario e quindi una serie di concessioni arrivate anche dai paesi del nord che oggettivamente ci sono e vanno notate. E dall'altra parte l'Italia che ha ceduto sul dire voglio i corona bond subito, immediatamente e non mi rompete le scatole. Quindi una posizione di equilibrio, come è normale che avvenga in situazioni di questo genere. Poi chi la legge da una parte politicamente, chi la legge dall'altra, punto. Sempre 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci sono benvenute. È la seconda parte di 24 mattino di questo venerdì 24 aprile, sono le 7:23 minuti e 48 secondi, è la parte dedicata alla rassegna stampa. E le prime pagine dei quotidiani ci raccontano in parte di questo accordo europeo. Con subito il prestito ponte europeo, scrive la stampa citando Conte. Primo accordo in Europa, scrive il Corriere della Sera. Il Messaggero un po' più scettico, aiuti europei solo un primo passo. Il Sole 24 Ore parla del debito pubblico in arrivo, 43.000 euro a testa, perché oggi il Consiglio dei Ministri varerà il documento di economia e finanza. Sì al fondo europeo, mancano le modalità, scrive sempre il Sole 24 Ore. E poi abbiamo Libero. Chi fuma non prende il Covid. La nicotina riduce dell'80% il rischio. In realtà è uno studio solo parziale sul quale i medici francesi hanno raccomandato la massima cautela. Finanza alla Regione Lazio, Zingaretti rischia il posto, è il titolo della Verità, perché c'è un'inchiesta, adesso ci arriviamo. La rivolta dei sindaci è il titolo del giornale, i primi cittadini sfiduciano Conte, facciamo noi. Il Fatto Quotidiano parla ancora delle RSA, la Lombardia mente sui malati nelle RSA. Il Manifesto titola Da Recovery, il Consiglio Europeo trova un accordo sull'urgenza del Recovery Fund contro la crisi. E infine un'occhiata anche alla Gazzetta dello Sport. Champions a Ferragosto, perché la UEFA ha deciso fine campionati entro il 2 agosto, la Federcalcio si adegua, poi il via alle coppe. Qua torniamo all'altro tema che abbiamo discusso ieri, lo sapete, il campionato di calcio deve ricominciare oppure no? Alcuni dicono chi se ne frega, però se può ricominciare, perché no? La Bundesliga riparte il 9 maggio, i tedeschi ripartono il 9 maggio. Ed eccoci, iniziamo come sempre da notizie poi relativamente laterali, perché la prima ci porta in un ospedale, a testimonianza di un vecchio vizio che non se ne va. Siamo sulla stampa e siamo a pagina 17 e Francesco Creazzo ci racconta la storia di Catanzaro, dove... Soltanto dopo 4 giorni, dopo le dichiarazioni di riconoscenza dei 2 pazienti bergamaschi guariti dal Covid nel nosocomio calabrese, sull'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro si abbatte uno scandalo. 57 persone, tutte dipendenti del centro sanitario calabrese, si sarebbero assentate regolarmente dal lavoro per andare a giocare ai videopoker o a fare la spesa. Così è. Non so se sia avvenuto anche in questo periodo di Covid, però l'inchiesta è quella della Procura di Catanzaro, appunto, con il coordinamento del procuratore aggiunto Giancarlo Novelli e del procuratore Nicola Gratteri, sospensione dal posto di lavoro per 15 persone, tra le quali un dirigente e 6 dipendenti dell'azienda sanitaria provinciale, 8 lavoratori dell'ospedale, il sequestro degli stipendi per altre 18 persone, 2.000 episodi di assenteismo, 2.000, spalmati su 57 persone. Fatevi un'idea. Ripresi dalle telecamere degli uffici sanitari che gli inquirenti hanno poi riscontrato con le prove documentari e attraverso l'osservazione e il pedinamento dei presunti, qua si dice furbetti, insomma, presunti truffatori, diciamocelo. Un monte di assenze di oltre 1800 ore che avrebbero dovuto essere spese al servizio del pubblico e invece venivano impiegate, stando all'inchiesta della magistratura, nei modi più disparati. Vecchi vizi dunque che non se ne vanno, sono vecchi vizi italiani come quelli di una burocrazia a volte cieca, che è quella che per esempio ci racconta La Verità a pagina 18. La storia è stata in parte raccontata dal TG1, ma ha a che fare con molti, cioè riguarda molti più casi. arrivano le fatture ai parenti dei morti cremati fuori regione, ci dice La Verità. Non gli hai potuto stringere la mano quando la fame d'aria gli squarciava i polmoni, scrive Edoardo Cavadini. Non gli hai potuto asciugare le lacrime quando lui, smarrito come un bimbo in un letto sconosciuto, cercava il tuo conforto di figlia. Non gli hai potuto dire addio quando il Covid te l'ha portato via. Poi un giorno apri una busta e c'è una fattura da pagare. Leggi 777,43 euro e la causale cremazione. Solo oggi, a distanza di settimane, scopri che il suo corpo lo hanno portato a Ferrara e muori un'altra volta dentro. Cristina, che ha raccontato la sua storia al TG1, è solo una delle centinaia di vittime collaterali di questa epidemia, le quali hanno avuto un padre, una madre, una figlia, un figlio trasportati dalla Bergamasca in altre regioni per la cremazione, solo 350 dal capoluogo orobico, quasi un migliaio in tutta la provincia, i feretri caricati di note sui camion dell'esercito, insomma quell'immagine che tutti conosciamo. Siamo tantissime persone, racconta Cristina, abbiamo tutti la stessa storia, c'è anche chi ha avuto storie peggiori, c'è chi ha avuto urne perse, bare che non si sono trovate, alcune solo dopo 2 settimane, e poi appunto questa fattura che arriva, la fattura che dice cremazione fuori regione, ci devi 770 euro. A proposito di regioni, c'è la questione che riguarda la regione Lazio. Come sapete, qua in rassegna stampa ce ne siamo occupati spesso, sono partiti un po' di giornali come Libero, come La Verità, adesso l'inchiesta deflagra e vediamo dove arriverà, perché ieri la Guardia di Finanza è entrata nella sede della Regione Lazio per la questione delle mascherine. Di cosa si parla? Di quella che ormai la conoscete, la storia delle 7 milioni di mascherine, dei 7 milioni di mascherine mai consegnate. Andiamo sul Corriere della Sera, pagina 13. Fulvio Fiano, inadempimento di contratto sulle pubbliche forniture. È il reato ipotizzato dalla Procura di Roma sulla mancata consegna di 7 milioni e mezzo di mascherine alla Regione Lazio da parte della Ecotec SRL. Anche la scadenza di ieri, dopo rinvii di oltre un mese, non è stata rispettata. L'ente pubblico, che in questa vicenda è parte lesa, va detto chiaramente, è ora pronta a chiedere risarcimenti. Su delega del procuratore aggiunto Paolo Ielo, i finanzieri hanno già acquisito negli uffici del Dipartimento regionale della Protezione Civile i contratti stipulati a metà marzo in affidamento diretto. Come previsto dal regime emergenziale, lo scambio di mail e la documentazione fornita a sostegno della propria credibilità da parte di questa società con base in Cina e sede a Frascati. Un capitale sociale da 10.000 euro e che appunto pensava di poter assicurare, venendo in realtà da una storia di fornitura di LED, di poter assicurare milioni di mascherine alla Regione Lazio, la quale assicura di essere coperta dal punto di vista delle mascherine, ma evidentemente il problema resta. Restano due ordini di problemi. Il primo ovviamente indagare chi è questa società, che cosa è successo effettivamente, e dall'altra parte, insomma, capire come mai sia stato affidato a questa società l'appalto per la fornitura. A proposito di appalti, vi voglio segnalare, prima di chiudere questa parte della trasmissione, un buon pezzo di Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano che ci racconta, è un po' tecnico, vediamo se però insomma Meletti mi pare che lo spieghi bene. Ha a che fare con la Corte dei Conti e ha a che fare con i controlli che vengono effettuati sugli atti dello Stato, insomma anche nelle sue articolazioni territoriali, regioni, comuni e via dicendo. Qual è il punto? Il punto è che il titolo è questo: Corte dei Conti libera tutti, i controlli si autoaffondano. Accade questo, scrive Meletti. Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha mandato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte una proposta normativa volta al miglioramento delle funzioni dell'organizzazione. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è una sburocratizzazione. Però, questa sburocratizzazione cosa prevede? I provvedimenti di aggiudicazione o quelli che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, o che ne determinano la cessazione anticipata o la risoluzione in via transattiva di eventuali controversie, insomma, vanno sottoposte a un controllo preventivo. Se la Corte dei Conti non risponde entro 30 giorni, si dà sostanzialmente il via libera, E se c'è il silenzio a senso, non ci saranno, non ci potranno più essere dei controlli successivi e quindi la Corte dei Conti non potrà controllare più. Potete immaginare che cosa succede se ogni comune, ogni regione, ogni amministrazione invade la Corte dei Conti con tutta una serie di richieste che richiedono, come dire, il via libera entro 30 giorni, altrimenti non ci saranno più controlli. Beh, insomma, sapete, potete immaginare che cosa può avvenire. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Mio marito ha 62 anni, è sempre andato a lavorare perché il suo settore non ha chiuso. Mi chiedevo se da stamattina o dal 4 maggio diventerà anziano e quindi non potrà più andare a lavorare. Io ho 68 anni, architetto, titolare di un'impresa edile che ancora sto lavorando e la pensione non lo vedrò prima di 70 anni. Quindi va bene, d'accordo, datemi la pensione subito e resto a casa, se no non so che dire. La rivolta degli over 60, eccovi. In tanti ci state scrivendo su questa storia, su questa ipotesi di chiudere in casa gli over 60 che sta circolando. Vedrete che non avverrà alla fine. E già qualcuno ci chiede però, perché ormai alcuni lo danno per fatto, qualche ascoltatore già ci chiede informazioni pratiche. Siamo una coppia di 62 anni, possiamo andare nella nostra casa in montagna? Certo, siamo anche una radio di servizio tra le altre cose, quindi anche di questo ci occupiamo. Caro Paolo Mieli, buongiorno, buon venerdì. Allora, cominciamo dal fatto che oggi non è in edicola Repubblica, perché sì, nel bel mezzo dell'epidemia Covid c'è stato un terremoto nei giornali, sono cambiati i direttori di Repubblica, se ne va Carlo Verdelli, a cui va la nostra solidarietà, mia e tua immagino, anche perché è stato sottoposto a un'aggressione su internet, un'aggressione che viene dall'estrema destra, molto odiosa, gli è stata messa alla scorta. Bene, se ne va e viene sostituito da un validissimo professionista, Maurizio Molinari, che era direttore della Stampa. La Stampa va come direttore Massimo Giannini, che viene da Repubblica, e all'Huffington Post, che era diretto fino a poco tempo fa da Lucia Annunziata, va Mattia Feltri, un giornalista della Stampa. Un'intricata sì, giostra. Io mi aspettavo che sui giornali se ne parlasse di più, ma evidentemente sì, è rimasta un po'. Sì, è rimasta. Il giornale che ne parla di più, ecco, per i lettori più curiosi, è il Foglio. Il Foglio dedica quasi un'intera pagina, pagina 2, a questa vicenda, mentre gli altri, giustamente, lo sottolinea, sì, si occupano soprattutto di questa importantissima riunione europea. Sì. Risultato, un altro rinvio. Piccoli passi e rinvii. Sì. Piccoli passi e rinvii. Quindi, se vuoi, ti anticipo già quello che diremo il 9 maggio, dopo l'ennesima, la prossima riunione, e sostanzialmente, forse è normale che sia così, sostanzialmente non c'è una specie di obbligo di velocità nelle decisioni europee. Conte si compiace moltissimo, sì, ha fatto ieri sera un video di un minuto perché dice che è stata una grande vittoria italiana, sì, ma io trovo più ragionevole quello che scrive Emanuela Perrone, pagina 14 del Sole 24 Ore, ma è scongelato reddito di emergenza e dice adesso ma è scongelato tra sì, PD e Movimento 5 Stelle sale la tensione sul decreto di aprile, Sì, si guarda un po' più, diciamo, un po' più a quello, no, che alle, sì, alle scelte europee. Quello è il frutto del precedente rinvio, perché come ricorderai, come ricorda sì, giustamente Manuela Perrone, doveva essere fatto prima di Pasqua e si rinvia costantemente. Perché si rinvia? Perché i 5 Stelle chiedono un maggiore uso dei criteri del reddito sì, di cittadinanza, cioè a pioggia il PD, secondo me saggiamente, dice no, stiamoci attenti perché non è che possiamo buttare via sì, i soldi, perché ha anche ammesso che l'Europa ce li dia, e in Europa la discussione è, perché tutto sia chiaro, a questo punto è che il MES verrà accettato, perché il MES è poi legato ai finanziamenti della Banca Europea, e quanti di questi soldi ci verranno dati in prestito e quanti ci verranno dati, per così dire, in regalo, cioè a fondo perduto. Ovviamente noi da che parte siamo? Dal fondo perduto, naturalmente, siamo dalla parte. Ma allora, curioso. L'Italia si batte per averli a fondo perduto. Anche senza averli letti, tirando a indovinare, insomma, ci avrei azzeccato. Comunque sei bravissimo, vuol dire che l'hai letti almeno nei giorni scorsi. L'Italia si batte per avere questi soldi tantissimi a fondo perduto. Sì. L'Europa dice: vediamo, come vediamo tutti gli altri paesi, ma in prestito, e quindi sottoponendo prestito significa che prima o poi li dovrei restituire, e comunque c'è un controllo, anche se non ci sono le famose condizionalità, c'è un controllo su tempi, modi. Della restituzione, e quindi anche sull'impiego. Esatto, li devi usare per quello, insomma, e non per salvare per l'ennesima volta l'Italia, diciamo, concettualmente, per dirla semplicemente. Comunque, se devo fare una notazione, si è persa la concitazione, lo spirito dell'urgenza che c'era in piena a Covid, e si ricomincia con questi riti del rinvio. Ogni politico prende tempo, perché sa che intanto è tutto tempo guadagnato. Sì. Nel frattempo, ne parlo tutti i giornali, ma il giornale ci fa una testata, la cosiddetta rivolta dei sindaci, cioè i primi cittadini d'Italia, tantissimi, di tutti i partiti, sfiduciano Conte, dice facciamo noi, i sindaci furiosi sfiduciano Conte, questo è il modo di leggere del giornale, ovviamente. Sappiamo cosa fare adesso, cari cittadini, dovete fidarvi di voi. I primi cittadini di 8.000 comuni chiedono con una lettera aperta al governo di essere parte attiva nella ripartenza. Guarda, a proposito, abbiamo fatto sentire prima le voci ieri di Beppe Sala, oggi di Giorgio Gori, insomma due sindaci non proprio lontani dal governo, che insomma iniziano a sentire un po' abbastanza chiaramente la pressione dell'avere delle indicazioni chiare. Che la politica dei rinvii, che si è al governo in Italia o in Europa, va benissimo, ma poi i sindaci devono rispondere quasi direttamente ai cittadini che incontrano per strada. Se vuoi dei movimenti sotterranei, ne parla tutto, ne parla un articolo di Francesco Veterami sul Corriere della Sera, Berlusconi si avvicina sempre più al governo, ma vuole che cambi la formula, che si faccia magari un Conte Ter, cioè con il PD, una parte dei grillini che è più responsabile ed è disposta a votare il MES, e poi i voti di Berlusconi. Sì. Tu pensa che parabola che sarebbe, Paolo, il Movimento 5 Stelle, un pezzo del Movimento 5 Stelle si ritrova al governo con Silvio Berlusconi. Hai ragione. Ricordiamoci che questa legislatura è cominciata con un trionfo dei 5 Stelle, e quando si sedettero al tavolo delle trattative si sarebbe subito fatto il governo con Salvini, ma i 5 Stelle dissero: noi Berlusconi né un suo rappresentante non vogliamo neanche incontrare. Alla fine sarà Berlusconi che salverà i 5 Stelle. È una parabola, forse, per come stanno andando le cose, è una parabola davvero che solo in Italia si può immaginare una cosa del genere. Comunque mi sembra, a livello di maggioranza, che questo parziale rinvio di ieri in Europa per il momento dia qualche rassicurazione al Presidente del Consiglio, soprattutto sulla tenuta interna dello stesso Movimento 5 Stelle. Che dici? Sì e no, perché nel frattempo c'è il decreto di aprile, dove qualche decisione dovremmo prendere. Quello che vi dicevo prima, che era stato rinviato già da prima di Pasqua. E poi si sente che, insomma, sono tutti scemi nel nostro paese, però questa idea che basta rinviare e presentare il rinvio come un nostro grandissimo successo può funzionare una volta, due meno, tre meno, e adesso la prossima sarà la quarta. E, insomma, tutti temono che gli italiani, gli elettori si sveglino e dicano: ma che state facendo? Prendiamo una decisione netta, perché sia sì al meccanismo europeo, no al meccanismo europeo, ma non presentiamo ogni passo o passetto come una grande vittoria della linea italiana, perché ad ogni evidenza non c'è. Ovviamente io stamattina per curiosità ho guardato i giornali di tutta Europa, le prime pagine su internet, e nessuno parla di una grande vittoria italiana. Naturalmente, alla riunione di ieri. Naturalmente. Nessuno, controllati tutti, anche i minori. Allora, solo una piccola segnalazione prima, un paio di segnalazioni, anzi più che piccole, importanti, prima di andare in pausa. Come vi dicevo, l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata al debito pubblico e quindi al documento di economia e finanza che dovrebbe essere varato oggi, con uno scostamento di bilancio di 55 miliardi. Si parla di 43 mila euro a testa di debito, e c'è un commento, un buon commento di Alberto Rioli, che parla di una via obbligata ma pericolosa. E sul tema della riapertura, beh, c'è la filiera dell'arredo che è un po' in fermento, no? E chiede di riaprire subito. Anche qua l'attesa è per il 4 maggio, forse anche per prima, insomma, per ripartire addirittura magari il 27 aprile. Il traffico, ci ritroviamo tra un attimo e torniamo a parlare di anziani. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfone? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfone.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfone.com/promo. Mattino. Che poi anziani, ma che anziani, uno a 60 anni non è un anziano, cioè meglio, i miei figli che hanno 15, 14, 8 anni ci considerano anziani già noi, però insomma, uno a 60 anni non è anziano. Eppure, caro Paolo, se ne discute di questa storia dei sessantenni che devono rimanere in casa. Oggi usiamo una foto simbolo che è su tutti i giornali, è una foto di Fiorella, perché ieri Fiorella ha fatto un video dicendo: io il 16 maggio compirò 60 anni. E poi a scadenza potrei uscire solo dal 4 al 15 maggio. Noi sessantenni siamo persone da proteggere. Aspetta, aspetta, guarda Paolo, aspetta, guarda che lo peschiamo, ce l'abbiamo, vai Filippo. Salve, buongiorno, sono Rosario Fiorello, sono nato il 16 maggio del 1960, significa che il 16 maggio compirò 60 anni. Adesso quindi i sessantenni non possono uscire, io non ce li ho ancora, quindi io in pratica dal 4 maggio al 16 maggio potrei uscire, ma noi sessantenni dobbiamo fare fronte comune e dobbiamo dare retta a chi ci governa, per cui se dicono che i sessantenni devono stare a casa vuol dire che siamo persone a rischio, siamo a rischio, siamo persone da proteggere, noi andiamo protetti perché siamo un po' come il panda, come il cercopiteco, come il colibrì dell'Himalaya. Il colibrì dell'Himalaya, insomma. E poi Fiorella ha fatto anche un conto maligno: io e Ligabue dobbiamo stare a casa, ma i venditi non ne parliamo proprio. Si è messo a elencare tutti i cantanti che hanno impietosamente 60 anni, ma smettendo di scorciare, è il fatto che ci racconta come su questo tema ieri c'è stata una litigata, diciamo gelo, dice il Fatto Quotidiano, pagina 4, articolo di Luca De Caro, il gelo tra Premier e Colao, perché è stato Colao il capo della task force che ha proposto di fissare questa barriera ai sessantenni, e cosa non ne ha, Conte non ne ha voluto sentire parlare, quindi si sarà creata una grande popolarità, immagino, su questo fra gli ultra sessantenni. E sai perché? Perché poi è chiaro che non si farà una barriera per cui i sessantenni, quelli che hanno più di 60 anni, non potranno uscire di casa, ma fissa un limite psicologico, perché ovviamente sappiamo che sono i vecchi, sono quelli che hanno più di 60 anni, e questa cosa sta entrando in circolo anche insieme a tutte le, sta entrando in circolo dall'inizio di questa epidemia, assieme a tutte le notizie che ci sono. Prendiamo delle notizie positive. Sì. Vai, Trump vai. Cede a Fauci. Fauci è il virologo che ha 78-79 anni e frena gli stati ribelli. Troppo presto per la riapertura. Ecco qua un quasi ottantenne che vince. Ma poi ci sono le vicende dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che negli studi per anziani metà dei morti europei, una cifra impressionante, in quelle case per anziani, quindi non è solo una questione di Lombardia, insomma delle polemiche anche giudiziarie che ci sono in Italia, ma c'è stato un problema europeo. Sì. La denuncia, lo prendo un articolo sul Messaggero, hai visto, Claudia Guasco? Sì, denuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla strage delle case di cura, sistema da ripensare, l'Andi del Gemelli dice ora tamponi in tutte le strutture per isolare i malati, e tutti i giornali, ma proprio tutti, fanno inchieste, fior di inchieste, ce n'è una fatta molto molto bene sul Corriere della Sera, la firma Gian Antonio Stella, la ribellione degli over 60, noi chiusi in casa, una follia, si intervista anche il sociologo Domenico De Masi che dice guardate che c'è un modo migliore per esaminare, il sociologo De Masi ha 82 anni. Quindi, tra le altre cose. Dice che è quello di guardare le pillole che devono prendere, cioè gli esposti ai rischi non sono quelli che hanno più o meno di quella età, ma gli esposti ai rischi sono quelli che hanno gravi patologie, quindi ci possono essere delle persone che hanno 50 anni che sono più esposte al rischio, certamente. Più esposte al rischio di altri che stanno, se ne hanno 70 e sono in piena forma. Sì. Io ne approfitto, se me lo consenti, per prendere la prima pagina del manifesto e fare gli auguri a Rossana Rossanda, una figura storica della sinistra italiana che di anni ne ha 96, ne compie oggi 96, e fra le fondatrici, la fondatrice del manifesto, la musa ispiratrice del manifesto, e gli fanno gli auguri con un articolo bello e toccante. E poi, passando dal sacro al profano, di Raffaele Cutolo, che invece per età, il grande boss della Camorra, forse riesce a uscire di carcere. Qua si è scatenata nei giorni scorsi un po' di polemica sul tema del 41 bis, delle nuove direttive del ministero e delle decisioni dei magistrati in merito appunto alle scarcerazioni dei mafiosi. Sì, però qua bisogna dire se la sono presi col governo, con il ministro di giustizia. Questi sono singoli magistrati che interpretano una norma. Ovviamente la norma non può essere fatta in modo di dire se uno è mafioso, anche se ha il coronavirus, anche se ha le convulsioni per dei danni ai polmoni, non esce. Le norme sono per l'interpretazione, ma l'interpretazione, si è detta in modo più chiaro, è un'interpretazione dei magistrati, e quindi noi critichiamo il governo tutte le volte che c'è da criticarlo, ma stavolta il governo non è il ministro di grazia e giustizia che ha messo in libertà quei tre mafiosi di cui parlavi tu, che nel frattempo sono diventati cinque, e forse metterà in libertà Raffaele Cutolo. L'articolo è di Simone Di Meo sulla verità, pagina 19. Sì, in realtà qua l'avvocato di Cutolo ha presentato istanza per la concessione degli arresti domiciliari. Vedremo insomma che cosa decideranno le strutture, che cosa decideranno i magistrati. C'hai un minuto ancora? Come no, ne abbiamo anche un paio se vuoi. E allora guarda, visto stiamo parlando, finiamo con una notizia lieta a suo modo, che c'è un articolo di Gianluca Veneziani sul Libero che Richard Gere da gigolò a papà nonno, l'attore padre per la terza volta a 71 anni, però l'articolo, la cosa che mi ha colpito è che l'articolo è ipercritico, anzi violentemente critico, che dice ma come condanna suo figlio a restare nonno, e su queste cose è un articolo che fa riflettere. Sì. La parte che mi è sembrata più opinabile di questo articolo dice ma come, questo è un ecologista, un campione dei diritti civili, è uno sostanzialmente, dice, uno di sinistra, uno della sinistra radical chic, e poi fa una mossa così, un passo così egoistico come mettere al mondo i figli. Allora, ti ricordi Paolo che tra l'altro parlammo anche di Bernie Eccleston, stessa operazione, con età molto più avanzata, tra l'altro di anni, ne ha 80 di anni, ha fatto un figlio, è diverso, insomma, anzi ne ha 90, scusami, correggesti tu, ti ricordi? Sì, certo. 80, e tu mi correggesti quasi 90, ci sono 20 anni di differenza, Ma ripeto, la cosa di fare un figlio a quell'età può essere discutibile, perché è ovvio che quel figlio rimarrà orfano prima di avere 50 anni, mettiamo nel migliore dei modi, ma non c'entra niente l'essere Richard Gere, un radical chic, gli riproverano di essere andato sui gommoni per i migranti. Questo sono a volte nei giornali sì, di destra ci sono degli slittamenti nella polemica che sì, fanno tu dicevi sono un po' eccessivi. Sai che facciamo? Chiudiamo, dato che abbiamo ancora un minuto, Paolo, sì, con delle note, visto che parliamo di persone, per così dire, di una certa età. Ci abbiamo aperto questa mattina alle 6.30, caro Paolo. Sono gli Rolling Stones che ieri a 76 anni hanno sono usciti con la prima canzone inedita dal 2012 ed è dedicata a Covid-19 e si intitola Living in a Ghost Town, vivere in una città. 76 anni per l'enorme Colau, dovrebbero essere a casa. Ah beh, 16. sì, però insomma le case dei Rolling Stones, sì, ciao, no? Infatti, ci andrei anch'io a quella casa. Sì, decisamente, isolato nella casa di Keith Richards. Grazie Paolo Mieli, ci sentiamo lunedì mattina. Buona Grazie giornata. Ancora. Buon weekend. Noi c'è GR24, a tra poco con Maria Latella, parleremo di scuola, parleremo anche degli esiti del Consiglio Europeo di ieri. A tra poco.